bufala in tavola di Nicoletta Carbone. L'Epifania tutte le feste le porta via, ma attenzione, non porta via i chili che abbiamo accumulato durante le feste, ma tranquilli, non facciamoci nessun problema. Perché? Perché qua in studio con me, pronto ad aiutarci, il dottor Stefano Erzegovesi, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'Ospedale San Raffaele di Milano, una delle colonne della bufala in tavola. Buongiorno a proposito, tutti, colonna, come è andato con il io colonnino o colonnone? Pienamente consapevole di aver messo 4 kg nel periodo delle feste, dai primi di dicembre fino all'Epifania, ma sapendo quello che stavo facendo, quindi, come dire, prendetemi come esempio possibile di come... Intanto, a proposito, allora, il dottor Erzegovesi 4 kg, voi quanti ne avete presi? Quindi possiamo naturalmente farci queste confessioni sui nostri social se volete, ma comunque, dottor Erzegovesi, diciamola tutta, è il solito tormentone. Prima, cosa fare per non ingrassare a Natale durante le feste? Poi, che cosa fare per dimagrire? È sempre la solita musica. Chissà come si fa a far la dieta, smette di mangiare. Io non ce so capace, e un po' di panza a me non mi dispiace. Devo dire che anche a me un po' di pancetta non mi dispiace, ma siamo seri, dottor Erzegovesi, ha senso mettersi a dieta per buttare giù 2 chiletti, 4 nel suo caso? No, assolutamente no, ma seriamente, c'è una componente che è il vero problema per cui le diete falliscono, che è la componente prestazionale, quindi io nel momento in cui mi do un obiettivo e sento questo obiettivo, deve essere un po' come prendere un voto a scuola. Sì. Questo significa mettermi in uno stato di allerta che per sua natura mi porta ad avere una sensazione di tensione e di stress che sicuramente non mi aiuta. Ma direi di più, mettersi a dieta nel momento in cui io so che sarà una cosa che durerà per un certo tempo e poi non la farò più, diventa già un modo sicuro per poi dopo la dieta ritrovarsi ad abbuffarsi ancora di più. Quindi invece, perché no, usiamo questo momento per immaginare a un anno nuovo, dove poi ogni giorno è un giorno nuovo in cui possiamo cambiare il nostro stile di vita in generale, quindi non solo per certi momenti della nostra vita. Allora, tranquilli, sereni, come sereni, si dice, basso ecco stress. Come sono arrivati vanno, soprattutto cerchiamo di evitare quegli errori grossolani in cui tutti noi cadiamo quando siamo presi un po' dall'affanno di buttare giù il chiletto, ci sentiamo in colpa, diciamo, beh, è un chiletto, 2, allora cosa faccio? Non mangio la pasta, non mangio il pane, tolgo l'olio. Dottor Erzegovesi, andiamo a punti, le cose da non fare, perché adesso tutto il web è pieno di consigli. Ecco 4 mosse per ritornare in forma, 2 consigli, 2 segreti. Invece noi vi diciamo che cosa non dovete fare. Perfetto. Allora, prima cosa da non fare, una cosa che noi citiamo spessissimo anche qui alla bufala in tavola, la dieta iperproteica classica, cioè bistecca e insalata e nient'altro. Perdete peso in fretta e ancora più in fretta lo recuperate dopo. Quindi, prima cosa, cercate di avere un'alimentazione equilibrata, ma in questo equilibrio dovete sempre e comunque mangiare cose che vi sazino, e le cose che saziano non possono essere solo quelle. Quindi no bistecca insalata, no alla dieta solo con le proteine. No, mai. La seconda cosa da evitare? Seconda cosa da evitare, ammazzarsi di attività fisica tutto in un colpo. Quindi va benissimo l'attività fisica e ha tutti gli effetti un farmaco, ma non tutto in un colpo, perché i vostri tendini e i vostri legamenti e le vostre articolazioni Non sono per nulla contenti. Andiamo al punto 3? Terza cosa da non fare mai, mettersi in una condizione di confronto, cioè cominciare a creare quello che dicevamo prima in termini prestazionali diventa un tu quanto hai perso, io quanto non ho perso. In questo momento i social o comunque gli strumenti di comunicazione facilitano molto i confronti tra chi fa le foto del piatto, fa le foto del corpo, figura intera, lo specchio, eccetera. Il confrontarsi ha a tutti gli effetti un meccanismo tossico. Un altro errore? Non fare mai le ore piccole, cioè uno dei dimagranti più potenti che dobbiamo mettere in conto è che noi dobbiamo andare a letto un po' prima di quello che normalmente faremmo, perché in questo modo gli orologi biologici del nostro metabolismo funzionano molto meglio. Quindi se volete dimagrire andate a letto alle 10 e magari alzatevi anche alle 6 se volete, ma non vado a letto alle 3 e mi alzo a mezzogiorno, perché questo non facilita il metabolismo. Elimino i grassi? Mai eliminare i grassi. Ormai mi conosce. Perché? Dai. Perché i grassi sono a tutti gli effetti una fonte di sazietà. Certo, vanno scelti i grassi buoni, quindi è chiaro che non possiamo riempirci di grassi saturi, men che meno di grassi trans, cioè margarine, grassi idrogenati. Ben vengano i grassi buoni, olio extravergine d'oliva, che citiamo volutamente tantissimo in questa trasmissione, frutta a guscio, semi oleosi, nelle dosi giuste, con buon senso. È chiaro che se mangiamo una secchiata di frutta a guscio ingrassiamo. Pensiamo a una manciatina, 30 grammi di frutta a guscio, pensiamo a un cucchiaio da minestra di olio d'oliva extravergine, sia a pranzo sia a cena, non solo ci aiuta a perdere peso, ma ci aiuta poi a migliorare in generale l'ossidazione cellulare, e quindi quello che poi ci serve per il cervello e per il resto del corpo. Altro punto, salto i pasti? Salto un pasto, quale pasto? Parlatene col vostro medico, forse, nel senso che a volte i digiuni intermittenti possono essere molto utili, ma per non saperne leggere né scrivere io consiglio molto di più il cosiddetto time restricted feeding, cioè mangiare in finestre di tempo come stabilite. Mi è diventato inglese anche lei. Wow. Comunque, tempo ristretto vuol dire: facciamo il nostro primo boccone alle 8, perfetto, facciamo in modo di fare il nostro ultimo boccone alle 8 di sera. 12 ore di finestra temporale per il cibo significa un funzionamento metabolico molto più efficiente, che può fare la differenza a parità di calorie che mangiamo. E quindi questa è una cosa molto interessante. Ci pesiamo? Ecco, altra cosa importantissima, cose da non fare mai: cosa pesarsi tutti i giorni. Cosa avrò mangiato oggi con tutte queste domande? Poi me lo dirà lei. Un cervello Mamma attivissimo. Mia! Bene. Non pesarsi tutti i giorni, perché quello che noi vediamo da un giorno all'altro è fondamentalmente l'acqua, e l'acqua ha il suo peso, ci mancherebbe, ma non è quella che dobbiamo perdere. Quindi pesiamoci non più di una volta alla settimana, condizione standard, mattino a digiuno dopo essere andato in bagno in, non so, magliettina e cioè comunque abbigliamento intimo, non di più, magari anche di meno, magari anche una volta ogni 2 settimane. È tutto chiaro? Mi auguro di sì. Noi comunque siamo sempre a vostra disposizione. Dubbi, domande, obiettivo salute, @radio24.it, c'è Valeria in regia alla parte tecnica che sospira, ma c'è chi, dottore Arzegovesi, approfitta dell'inizio dell'anno per rimettersi in forma. E allora qui un po' la musica cambia, ne parliamo tra poco. Voi restate, facciamo una pausa e torniamo subito dopo. Belli come il sole. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22:30 e la domenica alle 14 su Radio 24. La bufala in tavola. E su sei sempre il più, e giù sei un uomo in più, e su sei sempre tu, e giù non ci sei più. Sì, su e giù come il nostro peso, ma se il vostro cruccio sono i chili delle feste, state tranquilli, come li avete accumulati vanno via, è un gioco da ragazzi. Diverso invece è il caso di chi proprio quest'anno ha deciso di rimettersi in forma seriamente, però, quindi di cambiare vita, e dato che cambiare lo stile di vita è a tutti gli effetti un investimento, è bene non prendere con troppa leggerezza. Bisogna lavorare su più fronti, animati da determinazione e chiarezza, per non fallire, perché poi, dottore Arzegovesi, quando sbagliamo poi sbaglio chiama sbaglio. Sì, quel senso di fallimento sicuramente ci mette con una situazione e poi, emotiva vero? Negativa. E poi invade anche altri ambiti della nostra vita. No, non va bene. Allora, dato che è un problema di testa, dobbiamo prepararci. Abbiamo chiesto rinforzi e in linea con noi abbiamo Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti e coach che trovate in libreria con il metodo Ongaro, un grandissimo successo. Ciao Filippo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, Filippo, tu in questo spazio lavorerai con Stefano Erzegovesi e come sostieni nei tuoi video, nel metodo Ongaro, aiuterai i nostri amici a convincersi che non esistono barriere a rimettersi in forma, esistono solo scuse per non farlo. Facendo la, sono, la mi sto ungarizzando, che... vedi? Mi sto... Sono d'accordo facendo la promessa che è una competizione però al massimo solo con se stessi. Non è una cosa che deve metterci eccessivamente sotto pressione, ma indubbiamente io sono convinto che tutti partendo dalla loro condizione possono migliorare la forma fisica e spesso si fanno rallentare in questo percorso da tutta una serie di scuse, diciamo, no? Autoinganni, alibi che noi ci creiamo per non guardare in faccia la realtà e soprattutto per non affrontare quegli sforzi che sono necessari per arrivare a un risultato. Sì, le tipiche frasi sono: non ho tempo, sono troppo impegnato, non sono capace, non ho le conoscenze, sono pigro. Sono esempi di frasi, o meglio possiamo dire di credenze, di concetti che abbiamo nella nostra testa e che ci impediscono di andare verso l'obiettivo desiderato, ma in realtà di fatto funzionano semplicemente come delle scuse. Quella del tempo, per esempio, che è la più diffusa, e noi sappiamo benissimo che il tempo è solo il riflesso delle priorità che ti dai, perché alla fine abbiamo tutti 24 ore in un giorno e dipende da come decidiamo di investirla, insomma. E per quanto riguarda l'alimentazione, dottor Erzegovesi, ancora ci sono tante persone anche che mi scrivono dai nostri ascoltatori: che senso ha mangiare da malati? Ecco, per tutta la vita, per poi morire sani. Beh, insomma, questa è ancora un po' dura. È un'affermazione molto forte su cui purtroppo a volte hanno ragione le persone che scrivono, perché c'è ancora una corrente di pensiero forte che collega la cucina salutare a una cucina in qualche modo un po' punitiva, quindi sì, con sapori scarsi, con consistenze non piacevoli. In realtà una cucina salutare può essere assolutamente piacevole, ma più che piacevole, può farci stare bene durante, ma soprattutto dopo che abbiamo mangiato. Molto importante quello che diceva Filippo, attenzione, il non ho tempo, a me capita tantissimo di sentirmelo dire quando si chiede di preparare un po' più di verdura, di mangiare cose migliori per la salute. Il non ho tempo è qualcosa che va rivalutato nell'ottica del beh, però se non hai tempo raccontami com'è la tua giornata, perché se io ci metto 2 ore per trovare parcheggio o 1 ora per rispondere alle mail o ai messaggi, non posso non avere 20 minuti per tagliare 4 carote o 2 cipolle, quindi c'è proprio un modo da bisogna ripensare al nostro tempo. Insomma, siete una coppia che le suona, vero Valeria? Sto guardando Valeria al di là del vetro. Filippo, se vogliamo allora davvero rimetterci in forma, potremmo farci aiutare da te provando a rispondere a delle domande che tu hai fatto e che hai scritto anche nel tuo sito e che mi sembrano molto interessanti, perché ci permettono di fare un po' un'analisi della situazione. Sì, diciamo che molto di quello di cui parliamo è un gioco di testa, no? Ormai la stragrande maggioranza delle persone sa cosa dovrebbe fare per avere la forma migliore, ma in qualche modo non riesce a farlo. Io penso che partire da delle domande faccia chiarezza, aiuti la persona a prevedere un po' di più anche lo sforzo che ha davanti. Quindi la prima domanda che io in genere pongo è proprio: cosa non ti soddisfa della tua condizione attuale? Perché le persone spesso hanno un desiderio di cambiamento, ma non hanno esattamente chiaro che cosa non va, no? E questo invece mette, questa domanda, ovviamente permesso che si risponda con estrema onestà, mette in luce le vere insoddisfazioni che spesso possono portare poi a dei comportamenti inadatti. Oggi molte persone mangiano in realtà per cercare di compensare lo stress, la stanchezza, l'insonnia, la solitudine, la tristezza, no? E finché non capiscono che dietro ci sono queste ragioni, rischiano di non arrivare mai al nocciolo della questione. Cioè, piuttosto, come stava dicendo prima Stefano, magari la soluzione per te non è andare a correre 10 km al giorno, ma è dormire 2 ore in più. E finché non diventa chiaro qual è il problema a monte, è sempre difficile identificare una soluzione valida a valle. Dottor Arzegovesi, sì, lei è d'accordo, perché questo è sicuramente il primo passo per inquadrare la situazione. Spesso non sappiamo che cosa vogliamo cambiare, abbiamo questa sorta di insoddisfazione che ci blocca e veramente ci paralizza, e quindi sì, continuiamo a seguire le solite abitudini e siamo perennemente insoddisfatte. Filippo, passiamo alla seconda domanda. La seconda domanda è come ti immagini di essere una volta che hai intrapreso il cambiamento? Anche questa è una domanda importante, perché viviamo in un mondo molto illusorio, soprattutto poi per quello che riguarda i social, internet, no? C'è questa tendenza a far apparire sempre semplice la totale trasformazione di te come soggetto. In realtà non è affatto semplice. Quando ti trovi davanti una persona, magari sovrappeso, magari fuori forma, che ti dice: io mi immagino di essere un modello alla fine del percorso, ecco qua, con serietà bisogna dire attenzione, perché forse non hai chiaro qual è il tuo vero obiettivo, perché oggi soprattutto i ragazzi sono tempestati da foto di persone in perfetta forma, magari anche foto finte fatte con Photoshop, e bisogna proiettare la persona esattamente su ciò che è ottenibile e non su quello che la persona sogna di poter ottenere, perché altrimenti questa discrepanza tra aspettative e risultati porta a frustrazione e fa sì che la persona poi butti via l'intero percorso. Certo. Dottor Arzegovesi, è questione di tempo e anche della possibilità di arrivare a questi obiettivi, che siano obiettivi raggiungibili. Parlando di stile alimentare, di dieta, è naturale, ci mettiamo a dieta e vogliamo ottenere il risultato nel più breve tempo possibile. Che cosa razionalmente possiamo aspettarci? Ecco, questa è una domanda quella che mi piace di più, perché è una domanda che aiuta la persona comunque a formulare un obiettivo in termini positivi, per cui non allontanarmi dal male ma andare verso il bene, verso qualcosa di buono. Da questo punto di vista, quando si tratta di cambiare la propria alimentazione, il dire non è importante che tu faccia un cambiamento drastico, perché spesso c'è questa idea, come appunto diceva giustamente, drastico cambiamento, immediato, comunque rapidissimo risultato. La nostra biologia non funziona così. La nostra biologia funziona per cambiamenti di piccola portata ma molto prolungati nel tempo. Quindi vuol dire: cominciamo a fare qualcosa di ragionevole e di piccolo. Non abbiamo mai, abbiamo sempre mangiato un pugnetto di verdura ad ogni pasto? Cominciamo a mangiarla all'inizio del pasto in una quantità più abbondante. Non è una cosa che ci sconvolge la vita, è una cosa di cui vedremo l'effetto magari dopo un mese, dopo due, ma cosa ti immagini di essere una volta? Ma anche nel nostro piccolo, appunto, non diventare un modello, ma domattina magari mi alzo, appoggio giù i piedi e sento di avere più energia per iniziare la giornata. È una cosa piccola ma apprezzabile in un tempo ragionevole. Quindi, anche se l'ago della bilancia, torniamo alla nostra bilancia, non si sposta come noi vorremmo, e quindi non perdiamo il chilo alla settimana, oppure non ritorniamo subito nella taglia del vestito che vorremmo indossare, non molliamo. Invece continuiamo con le domande, Filippo, perché siamo alla domanda numero 3. Cosa sei disposto a fare per cambiare? Una domanda importante per mettere in risalto le difficoltà, i sacrifici, le piccole o grandi rinunce che la persona inevitabilmente deve fare, anche se io sono assolutamente d'accordo con quello che è stato detto prima, che in realtà, se la si vede come cambiamento di stile di vita, non deve essere un percorso punitivo fatto di rinunce, sacrifici e basta, ma è anche giusto però, nell'avviamento di un programma di cambiamento personale, non sottovalutare quello che dovrai fare per arrivare all'obiettivo che desideri. Insomma, il percorso non sarà facile, ma ci darà grande soddisfazione, e per ottenerlo, e questo è un po' dove ci porta la quarta domanda, Filippo, che tu proponi, è individuare gli ostacoli che ci frenano, ci bloccano. Assolutamente, perché anche questo è una cosa che spesso tendiamo a sottovalutare. Gli ostacoli spesso sono sempre gli stessi, continuiamo a passare da un programma all'altro imputando il fallimento al programma, quando in realtà semmai il fallimento è perché non abbiamo rimosso degli ostacoli. Quindi è importante che la persona capisca, se l'ostacolo presente al tempo, bisogna capire perché deve essere visto come un ostacolo questa cosa. È inutile partire con un programma che prevede un investimento, che ne so, di 5 ore alla settimana di attività fisica, se a priori sai che il tuo tempo è limitato. Quindi capire bene quali sono i freni in partenza. E se tutte le cose che voi suggerite di mangiare, come mi ha scritto Mario la scorsa settimana, però poi a me alla fine non mi piacciono le verdure, i cereali integrali, dottor Arzegovesi, che si fa? Troviamo un Lei modo è il di... nostro medicuoco quasi cuoco, quindi ci darà una mano. È carina, mi ha scritto proprio questa mail dicendomi: ma capisco che avete ragione, ma io ci ho provato, ma non mi piacciono. Perché anche il gusto va educato, e anche in questo caso ci vuole tempo, è corretto? Ci vuole tempo, ma diceva prima una cosa importantissima Filippo sull'alimentazione emotiva, cioè l'alimentazione da stress. Spesso tra gli ostacoli che ci frenano c'è il fatto che noi abbiamo un tale sovraccarico emotivo che siamo quasi naturalmente portati ad esagerare con i cibi, soprattutto con i cibi meno salutari, con tanto sale, zucchero e grasso, proprio come un'anestesia emotiva. E allora lì dovremmo essere con grande onestà, guardarci allo specchio e dire: beh, però forse qualcosa da fare per riuscire a regolare meglio il mio stress, devo cercarlo, che non sia qualcosa che metto in bocca, che mastico, ma che sia qualcos'altro. Quindi dimmi cosa mangi, dimmi cosa ti piace e ti dirò quanto sei stressato. Ma noi, Filippo, salutiamoci con l'ultima domanda, diciamoci la verità, rispondiamo a questa domanda. L'ultima domanda è una domanda insomma un pochino più difficile, perché sei sicuro che non ti faccia comodo stare nella situazione attuale? Perché purtroppo accade abbastanza spesso che in realtà la situazione che non piace, ma che rappresenta allo stesso tempo una zona di comfort, ci permetta di fare un po' le vittime, di continuare a lamentarci, e quindi in realtà siamo noi stessi i primi freni al nostro cambiamento. E anche questa è una cosa che capita, non c'è niente di male o tanto nulla di strano, ma va fatta capire al soggetto nel caso non se ne fosse reso conto. Grazie Filippo per essere stato con noi, ricordo in libreria il metodo Ongaro, torna presto a trovarci, buonissima domenica anche a te. Grazie a voi. Dottore Arzegovesi, invece noi rimaniamo qui, tra poco ci sarà ancora da lavorare, perché le abbiamo preparate alcune ricerche che vorremmo commentare con lei. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Quanto vale 21 anni della mia vita, da 30 a 50 anni? Quanto vale la sofferenza di essere in carcere innocente? Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate, anche grazie alle vostre segnalazioni. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Ma quindi tutti convocati anche nel weekend? Anche la domenica, dopo le partite, dopo le corse, le moto, le auto, beh, poi arriviamo noi. D'altra parte sono quasi 20 anni che vi raccontiamo lo sport. 20 anni. Come eravamo giovani. Siamo Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E tutti convocati il weekend vi aspetta ogni domenica a partire dalle 17, naturalmente in diretta su Radio 24. La bufala in tavola. E tra una portata e l'altra, dottor Arzegovesi, buongiorno. Buongiorno, eccola, rieccoci. Qui. Siamo sempre chiusi in studio, tra una portata e l'altra diamo un occhio alle ricerche. Allora, c'è una ricerca che sembra particolarmente interessante, che suggerisce un rimedio per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue, un rimedio assolutamente naturale, aglio e limone. È stata pubblicata sull'International Journal of Preventive Medicine e i ricercatori suggeriscono che assumere aglio e succo di limone ogni giorno aiuterebbe a ridurre i livelli di colesterolo nel sangue, o perlomeno a tenerlo sotto controllo. abbiamo bisogno di un suo commento. Certo, la premessa... Per inserirla, questi risultati della ricerca in un contesto quotidiano. Certo, beh, innanzitutto il concetto è, mi raccomando, se avete una ipercolesterolemia importante andate comunque dal medico, cioè non affidatevi solo ai rimedi naturali. E detto questo, è sicuramente vero che moltissimi prodotti vegetali, l'aglio e il limone sono due di questi, per un insieme di motivi, da un lato perché hanno dei principi attivi specifici che sono alcuni bioflavonoidi, che è una sorta di parente della vitamina C per il limone, e invece l'allicina, che è quello che poi dà l'odore o il gusto forte all'aglio, per l'aglio, hanno un effetto che tende a ridurre i livelli di colesterolo e quindi a ridurre la produzione di colesterolo e l'assorbimento di colesterolo. L'altra cosa importantissima di questi due vegetali è la presenza di antiossidanti che, come tutti gli antiossidanti, migliorano l'ossidazione dei grassi, e ricordiamoci sempre che il grasso di per sé non è quello che ci fa male, quello che si attacca e che forma le placche. Il grasso ci fa male nel momento in cui si ossida, perché quando si ossida inizia a diventare, diciamo così, arrugginito sulle nostre placche, e a questo punto la nostra difesa si incavola perché sente un estraneo, lo colpisce e crea poi la placca, i trombi e quindi tutto quello che può essere il danno. Quindi la ricchezza di antiossidanti e la ricchezza di fibre, che sono ugualmente una sorta di antidoto al colesterolo ma anche ai trigliceridi. Questo è quanto noi possiamo ricavare da questo studio, perché leggere che aglio e limone insieme curano, riducono il colesterolo può sembrare un'affermazione priva di fondamento, ma inserita e contestualizzata come lei ci ha ben spiegato può darci anche delle indicazioni per la nostra dieta quotidiana, il che non significa che ogni giorno dobbiamo mangiare aglio e spremuta di limone. Ecco, poi ecco, perché l'aglio c'è crudo, anche l'altro, ecco, non solamente per le relazioni, ma perché spesso queste ricerche che noi leggiamo e che ci piacciono perché ci suggeriscono dei rimedi naturali e quindi alla portata di tutti, possono indurci a fare delle scelte che non sono salutari. Quindi il potere antiossidante, lei ha sottolineato, quali altri alimenti, quali altri consigli ci può regalare per aiutarci, soprattutto in questo periodo dell'anno, a tenere sotto controllo il colesterolo, sempre con la premessa che lei ha fatto in anticipo, e cioè che per chi ha il colesterolo elevato è necessario rivolgersi al medico. Ecco, riabilitiamo, perché questa è un'occasione, noi riabilitiamo spesso le verdure qui alla Bufola in Tavola, riabilitiamo la famiglia dell'aglio, quindi la cosiddetta famiglia delle liliacee, quindi aglio, magari lo scalogno, cipolla, che... scalogno, il porro, il cipollotto, perché sono ricchissimi di quelle fibre che in particolare per la famiglia delle liliacee sono fibre molto prebiotiche, quindi amiche dei nostri batteri amici, ma soprattutto sono ricche di antiossidanti come ad esempio la quercetina, che sono antiossidanti che hanno a tutti gli effetti un potere che può essere, non dico come un farmaco, ma sicuramente un potere. Pensiamo alla classica zuppa di cipolle o zuppa di aglio per chi ha lo stomaco più forte e vive da solo, però. E vive da solo oppure se la si mangia tutti in famiglia, e a tutti gli effetti può essere un anti-influenzale. Ci sta per arrivare l'influenza, ci facciamo una bella zuppona di cipolle o di aglio e sicuramente l'influenza. Quindi lei ha parlato di prebiotici, colesterolo e prebiotici. Prebiotici, probiotici e postbiotici. Qua con questi biotici facciamo chiarezza con i biotici. Il prebiotico vuol dire che questa fibra che noi mangiamo non la digeriamo noi, ma piace moltissimo a lattobacilli e bifidobatteri, quindi ai nostri batteri intestinali amici. I batteri intestinali, quando sono amici, creano un ambiente metabolico, che è un ambiente metabolico che è portato più a consumare che non ad accumulare, quindi anche per il colesterolo questa è una cosa buona. Probiotici invece sono proprio i fermenti vivi, quelli che possiamo trovare nello yogurt, nel kefir, che ci piace tanto, nelle verdure fermentate. Basta parlare kefir, verdure fermentate, magnifico. Piuttosto che nei probiotici che ci può dare il medico, ci prescrive come integratori. I postbiotici sono tutte queste molecoline che i nostri amici piccolissimi producono, e che, attenzione, noi siamo qui a gasarci che il nostro cervello produce la serotonina o la dopamina. Teniamo conto che i batteri producono serotonina e dopamina perché probabilmente sono a tutti gli effetti loro gli antesignani della produzione delle molecole di segnale, e questi postbiotici sono di fatto il linguaggio universale che esiste tra le cellule, che ci può cambiare la vita da una vita di malattia a una vita di salute. Dottore Resegovesi, lei ha parlato di cervello, noi siamo qua a dire, no, lei cosa, ma è un po' gasati a dire che no, il nostro cervello produce la serotonina, ma ci sono i nostri amici, ma c'è anche proprio in questi giorni in pazza nella rete la dieta Mind, quella che è nata dal Medical Center di Chicago per suggerire gli alimenti che dovremmo inserire con più frequenza nella nostra dieta e che fanno bene al cervello, anzi avrebbero anche un'azione preventiva in alcune malattie neurodegenerative del cervello, in modo particolare Alzheimer. È una rielaborazione in parte della dieta mediterranea con una marcata presenza di verdure. Dottore Arzegovesi? Ecco, facciamo una premessa. Tutti questi nomi diversi è importante ricondurli, come giustamente diceva, all'alimentazione mediterranea, perché poi di quello si tratta. Gli americani dagli anni 70 si sono innamorati della dieta mediterranea, che però rimane un patrimonio del Mediterraneo, perché sì, qui siamo. Qui siamo. E detto quindi, questo, posto che è di fatto una dieta mediterranea, il mondo ci segue e insomma, mica tanto, il però, cervello italiano, non facciamo così gli sciovinisti, ma il cervello italiano ha una sottigliezza che probabilmente pochi altri cervelli, sarà per il clima o per il cibo, pochi altri cervelli nel mondo hanno. Detto questo, cos'è questa dieta Mind? Apre un capitolo di enorme portata in questo momento nella ricerca scientifica, che è il fatto che non solo le nostre emozioni influenzano come mangiamo, ma come noi mangiamo può influenzare le nostre emozioni e il nostro cervello. Quindi sicuramente patologie importanti come l'Alzheimer e come il Parkinson, ma anche patologie più di vita quotidiana, ma altrettanto importanti e invalidanti, come possono essere l'ansia piuttosto che la depressione. Cosa dobbiamo mettere nel piatto? Prendiamo le cose più importanti. Base vegetale, e qui ormai le linee guida, che si parli di salute del cuore, del cervello, del fegato o del sistema immunitario, dicono tutti la stessa cosa. Quindi verdura a foglia verde, parlavamo prima della cima di rapa, in generale foglia verde, quindi anche la bieta, lo spinacio, gli agretti o barba di frate, eccetera. Verdure in generale, cereali integrali e legumi, quindi questo scrigno di antiossidanti e di fibre, dicevamo prima, prebiotiche, e poi i grassi buoni, quindi il pesce grasso, non tanto, ma ci vuole un po' di salmone, di sgombro, di sardina o di alice, olio extravergine d'oliva, più di tutti, cioè sicuramente molto meglio l'olio extravergine d'oliva proprio come principe dei grassi buoni, un po' di proteine animali, ma quello che dice giustamente la dieta Mind è: non hanno fibre le proteine animali e quindi usiamole più come condimento che non come grande portata principale. Quindi soprattutto, dicevamo, pesce anche non grasso e un po' di carne bianca. Io sarei dell'idea che qui non le cita, però ma aggiungiamolo, le uova sono un alimento assolutamente sano e se sono di galline allevate bene sono un alimento assolutamente ricco di galline felici di razzolare, quindi di poter muovere le loro zampette, sicuramente un alimento di grandissima utilità e per nulla nemico, diciamo prima, del colesterolo in quantità giuste, un paio, due, quattro alla settimana, senza alcuna inimicizia col colesterolo. È quasi l'ora di buttare la pasta? E bene, di pasta, in modo particolare di spaghetti, si sono occupati dei ricercatori per carpirne il segreto. Che cosa racconta questa ricerca? Che Beh, questo ci dice, ma che cosa hanno mangiato quei ricercatori per farsi vedere quest'idea? Però perché loro dicono, e hanno fatto uno studio scientifico molto molto preciso, quando noi buttiamo gli spaghetti nell'acqua bollente, gli spaghetti non fanno le cose a caso, ma seguono un comportamento molto preciso, che è: prima si piegano, poi dopo si arricciano e poi dopo cominciano ad incorporare acqua e quindi poi a perdere la durezza e a gonfiarsi. Questo ci dice due cose importantissime anche da un punto di vista nutrizionale. Da un lato questo significa che noi mangiamo un amido che nel momento in cui è secco, pensiamo a sgranocchiare uno spaghetto crudo, è immangiabile. Sì, bisogna avere molta fame, insomma. Molta fame, allora a quel punto va bene tutto. Diversamente dobbiamo idratarlo, quindi dobbiamo farlo riempire di acqua, ma contemporaneamente l'amido deve, si dice, gelatinizzare, cioè deve acquisire una struttura che è una struttura più elastica e meno dura. Però attenzione, in tutto questo è importante che il gelatinizzare dell'amido non sia troppo spinto, cioè lo spaghetto stracotto. Quindi mi raccomando, sempre al dente, nel dubbio per gli spaghetti, ma in generale per tutta la pasta, meglio un po' più indietro. Che un pochino più avanti, indice glicemico si abbassa, i nostri batteri vanno a nozze perché mangiano anche loro. Quello. Ma questa è... le sa sempre tutte. Ma no, Nicoletta. Perché me le dice lei e io ho detto, vabbè, faccio bella figura una volta. Ecco, ricordiamoci sempre l'amido resistente che cita anche questo lavoro, è importantissimo, vuol dire un amido che nel raffreddarsi risulta un po' più resistente alla digestione, noi non riusciamo a digerirlo e quindi risparmiamo calorie. I nostri batteri intestinali invece se ne nutrono con piacere e quindi crescono quelli buoni e quindi stiamo bene da tutti e due i punti di vista. Dottore Rosogovesi, lei si merita un regalo. Arriva tra poco. Adesso ci fermiamo e poi una grande sorpresa. Va bene, sono in attesa. Queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. La bufala in tavola. È arrivato il nostro momento, dottore Rzegovesi. Lei non sa, lei non può immaginare per chi aggiungiamo un posto. Sono tutto orecchio. Ecco, io sono molto contenta perché lei mi ringrazierà molto, perché questo posto speciale lo aggiungiamo per Tosca d'Aquino, protagonista con Rossella Brescia, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, di Belle Ripiene, che è una commedia gustosa, dimagrante, dove quattro amiche condividono le risate, perché tra donne si ride, si chiacchiera, e soprattutto due grandi amori, gli uomini e il cibo, che sono naturalmente, come sempre, la croce delizia della nostra vita. Tosca! Ma buongiorno! Ma grazie. Che bello! sì, hai detto praticamente tutto. Un po', diciamo, di perplessità sul dimagrante, perché devi sapere che io sono una chef e quindi ambisco ad avere una stella Michelin coadiuvata dalle mie colleghe, dove chiaramente uscirà fuori qualsiasi cosa, perché ti puoi immaginare quattro donne in cucina. Che bello. Ma guarda, sai che cucinare tra amiche o in famiglia, massimo. Perché il dottor Rzegovesi è un grande sostenitore di cucinare in famiglia con figli. Ma anche per comunicare, quindi per stabilire una relazione che ha una qualità di relazione unica, preparare il cibo assieme, perché non è un amore carnale, non è un amore ideale, ma è comunque un amore a 360 gradi. Invitatemelo. Professore, sono perfettamente d'accordo. Senti, con Tosca, lei. Invitatemelo il dottor Rzegovesi, magari alle prove, dai. Perché... Anche perché c'è una cosa particolare che ci tengo sempre a dire, che noi cuciniamo realmente, cioè si apre il sipario e i forni sono veramente assolutamente professionali, i fuochi, tutto professionale. E ti senti il profumo del soffritto, capito? Quindi fuoco vero. E tante persone poi mangeranno anche, perché loro scendono giù in sala a portare questi piatti preparati da noi. E ciascuna prepara una ricetta in base alla propria estrazione geografica. Allora, aspetta, ciascuna prepara, io sono la chef, intanto incominciamo a precisare. Ma allora aspetta lì, una chef, tu interpreti Ada, che è un personaggio molto particolare. Sentiamo. Prendi l'aceto. Ho messo tutto sulle puntarelle. Prendi le puntarelle. Ma ca, guarda. Mannaggia, hai visto che paura che mi ha fatto? C'ha tutti gli occhiali indietro. Ma non è che c'ha avuto una bottarella? Ma quale bottarella? Sta benissimo, ha già preso colore. Dai, Ada. Ada. Respiri. Adrolo. Ah? Oh, ma non parla bene per niente, E quella cadendo si è morsa la lingua. Aspetta che c'ho l'aloe. Prendi l'aloe. Cos'è l'aloe? È per le afte, ma va bene lo stesso, apri. Che schifo! Ma se non sa di niente! Ma come? Sa di naftalina! Oh, Signor, ho scambiato le scatolette, ti ho dato l'unguento per le emorroidi. No, ma che stai scelto? Ada, anzi, Tosca, ma è fantastico. Sì, perché poi figurati, veramente rappresentiamo anche quattro tipologie di donne con quattro peculiarità, proprio sai, di regionalità, di modo di fare, di modo di... perché c'è Napoli, Roma, Milano e la Puglia da Rossella Brescia, bravissima, per cui è molto divertente e ce n'è veramente per tutti i gusti. Senti Tosca, giocatela un po' con il nostro dottor Erzegovesi, perché proprio sì, per lo spettacolo è stato proprio creato lo scrigno Belle Ripiene, che è sì, un raviolone, raccontalo tu, un raviolone. Allora, devo dire che questa è un'idea, perché io sono un po' più, nonostante sia napoletana, aspiro ed ambisco una sera piccina per la Nouvelle Cuisine, mentre la Rossella Brescia pugliese dice, senti, ma qua Nouvelle Cuisine, qua ci dobbiamo fare un piatto proprio, hai capito, accattivante, invogliante, gustoso e prelibato, e quindi inventa questo scrigno alle Belle Ripiene, che è, come dici tu, un raviolone che riesce a comprendere tutte e quattro, no, le regioni nostre, per cui del mio... ci sta il pomodoro piennulo campano, che è quello là proprio di sotto al Vesuvio, mamma sai, mia, noi ci abbiamo fatto una puntata di Pavia, e poi insomma il guanciale brava, quello il che guanciale è del romano, Lazio, e poi le cime di rapa, le cime di rapa, devo dire molto buono. Caspita. Allora, sentiamo se la giochi bene, dottor Arzegovesi, perché se lei se la gioca bene, Tosca d'Aquino la invita. E quindi anche, ecco, vediamo, e quindi vediamo, lei può anche mangiare e dire la sua. La dica ora. Allora, prima cosa, manifesto il mio conflitto interessi. Metà del mio sangue è napoletano, quindi insomma. E quindi già è già questo, di parte. Già sono di parte. Comunque, beh, la cima di rapa. Promossa. Ma non si discute. Esageriamo, perché c'è una ricerca scientifica enorme in questo momento sul potere benefico delle cosiddette crocifere, quindi certo, cima di rapa, broccolo, cavolo, ma anche rucola piuttosto che rapanello, eccetera. Quindi cima di rapa, mi raccomando, però cima di rapa, facciamo in modo che la sua più potente azione antiossidante e disintossicante, che è il sulforafano. Mi emozioni anche il dottor Arzegovesi, non è mai capitato in anni di mai trasmissione, impaperato, mai la lingua ha fatto blip, arriva Tosca d'Aquino Tosca, e sulle cime di rapa, shum. Sono scivolato sulla cima di rapa. Beh, noi scena ci succede spessissimo, quindi per noi è normale. Comunque il sulforafano è un potentissimo antiossidante, un potentissimo detossificante, addirittura anche con un effetto antitumorale nel senso di prevenzione, attenzione, non di cura. Bisogna attivarlo, che vuol dire cuociamo poco la cima di rapa, o piuttosto aggiungiamo qualcosa che di fatto c'è in moltissime tradizioni culinarie, che è dobbiamo aggiungere qualcosa che attiva il sulforafano, che può essere un qualcosa della stessa famiglia del cavolo, quindi un cappero, certo, quindi un pochino di polvere di senape, quindi cose di questo tipo. Quindi viva la cima di rapa, viva la cima di rapa, ma pomodoro con Tosca e pomodoro e piennolo Tosca, non si tu discute. Tra l'altro sei anche brava proprio in cucina, sarà un po' il gene napoletano, sarà che... sicuramente, come diceva il dottore, è sicuramente anche un po' una situazione familiare, cioè a casa mia hanno cucinato sempre tutti, quindi dal nonno alla nonna al papà, mio fratello cucina benissimo, ed è chiaro che, anzi, come diceva proprio il dottore, è molto aggregante, è normale, perché queste tavolate familiari dove si cucina, si mangia tutti insieme, poi fa veramente famiglia, fa veramente, no? Sì, ma poi una famiglia che in qualche modo tira fuori il meglio di ognuno, sì, di noi, che secondo me è la cosa più bella. Ecco il pomodorino del piennolo. Ecco, come è piennolo, speciale, diciamo, è veramente un sapore unico. Diciamo due cose però sul pomodorino. Lasciamogli dire due cose, Tosca, del pomodorino. Lo scrigno, ti cioè piace? Il licopene, quindi questa serie di sostanze antiossidanti che danno poi il colore così bello al pomodoro, nel piennolo, ricordiamoci, più è piccolo e più ha un terreno di crescita che è un terreno ricco di minerali e con meno acqua, quindi tutti i terreni, esempio, vulcanici, significa un concentrato che voi da un lato ve ne accorgete dal sapore, che è molto più dolce e molto più carico di gusto. Dall'altro ve ne accorgete perché in termini di salute il licopene è un antiossidante che, attenzione, noi pensiamo sempre al corpo, all'invecchiamento, sicuramente sì, è vero, ma fa molto bene anche al cervello, perché comunque l'antiossidante, vedi, ha a tutti gli effetti una prevenzione. Ecco, vedi, di... la verve napoletana, il segreto è, potrebbe, uno dei segreti è il pomodorino del piennolo. Sicuramente, pomodorino, sicuramente. Sì. Senti, voi sarete da martedì, siete qua a Milano fino al 19 di gennaio, sì, al Manzoni. Ma poi galoppate, Roma, Loreto, andiamo subito giù a Sistina, e poi continuiamo, come dici tu, dal nord al sud. È la tournée così, mangiando, chiacchierando, ridendo, regalando veramente sorrisi magnifici. Sì, tanti sorrisi, sì, belle, sì, ripiene. Si ride molto. Voglio salutare anche il nostro regista Massimo Romeo Piparo, e questo gruppo di attrici bravissime, di colleghe eccezionali. Guarda, devo dirti che è molto importante avere un gruppo fantastico, perché sai, la tournée si vive insieme, si forma famiglia, appunto. Si forma famiglia. Grazie davvero. Grazie a voi, buona a Tosca giornata, d'Aquino. Grazie dottore, grazie. Tosca. Allora, dottore, noi ci dobbiamo salutare, però mangiamo qualche cosa, io e lei. Chiudiamo, mangiamo e poi ci salutiamo. Facciamo un po' famiglia anche noi. Giusto, eh? Comunichiamo, come dire, il meglio di noi. Grazie, volentieri. Grazie a Valeria Bernardi, regia, la parte tecnica, anche lei. Anche noi abbiamo la nostra famiglia in radio, naturalmente Laura Vanossi, super famiglia in redazione. Vi do appuntamento domani alle 6:15, quando, come sempre, entro nelle vostre famiglie. Quando si inizia la giornata, per iniziarla con il piede giusto. Buona domenica da Nicoletta.